Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Ci occupiamo questa sera di una pagina di storia non molto nota e studiata, quella della battaglia condotta dagli ebrei russi del Bund, che è un movimento nato alla fine dell'Ottocento per migliorare le proprie condizioni di lavoro e conquistare un'identità e dignità come nazione. Alla fine dell'Ottocento gli operai ebrei, esclusi dalle industrie avanzate, erano occupati nelle piccole fabbriche che richiedevano manodopera ad alta intensità, con orari fino a 20 ore e bassi salari, costretti a vivere nella miseria e, segregati nella zona di residenza, subivano tentativi di annientamento con continui pogrom perpetrati dagli zaristi e dalla Chiesa. In queste condizioni nasceva nel 1897 a Lvin l'Unione Generale degli Operai Ebrei di Russia, Polonia e Lituania, nota appunto come Bund, il partito operaio ebraico rivoluzionario che diede vita all'emancipazione delle masse ebraiche e russe. Ne parliamo questa sera in compagnia di Massimo Pieri, fisico e matematico, esperto di sostenibilità e bioeconomia, che ha appena pubblicato per le edizioni Mimesis un saggio dal titolo Doikait, noi siamo qui ora gli ebrei del Bund nella rivoluzione russa. Il volume sarà presentato in Senato il prossimo 20 novembre. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, partiamo dal termine. Doikait è un termine yiddish, la lingua parlata tra gli operai ebrei, che significa noi siamo qui ora. Un concetto complesso, scelto dal Bund come una sorta di grido di battaglia. Ecco, ascoltiamo insieme questo passaggio del libro tratto dalla prefazione di Valentina Sereni. Il 7 ottobre 1897 nasce il Bund, l'Unione dei lavoratori ebrei di Russia, Polonia e Lituania, in linea con le idee dei movimenti rivoluzionari internazionali. Gli ebrei subiscono discriminazioni di ogni tipo, economiche, sociali, politiche, civili, e il proletariato ebraico vive in condizioni assai peggiori di quelle del proletariato cristiano. Il livello di povertà è spaventoso. Infuriano i pogrom, con l'obiettivo di unificare socialdemocratici e lavoratori ebrei delle regioni nord-occidentali dell'Impero Russo in un unico partito socialista. Di origine a Vilna, in Lituania, una delle più importanti organizzazioni ebraiche di sinistra, che svolge un ruolo fondamentale nella fondazione e formazione del Partito Operaio Socialdemocratico Russo, che nasce qualche mese più tardi, nel marzo 1898. Il grido «Noi siamo qui» esprime la lotta di classe operaia ebraica contro il potere oppressivo dello zar, contro l'autarchia e la borghesia capitalistica e per una società senza classi. Il Bund si fa rappresentante delle istanze dei lavoratori che appartengono a un'entità nazionale diversa, che pone questioni primarie e collettive specifiche. Il Bund mira al federalismo politico legato al riconoscimento dei diritti collettivi di un popolo. Dunque, Massimo Pieri, il movimento nasce con un intento di rottura nei confronti dell'impero zarista e della Chiesa ortodossa, lo abbiamo appena ascoltato. Ecco, partiamo da questo aspetto, dalla condizione degli ebrei dal punto di vista economico e sociale. Sì, le condizioni erano tali per cui quella soluzione che poi si è scelta era l'unica percorribile. Le condizioni generali, diciamo, economiche e sociali degli operai e dei lavoratori in Russia e dell'impero russo erano, come ho detto, in generale molto gravi. All'interno di queste condizioni, quelle degli operai ebrei erano ancora peggiori, perché gli ebrei subivano la doppia discriminazione, sia come ebrei e sia come operai. Inoltre erano esclusi dalle fabbriche meccanizzate, dai processi di meccanizzazione che si stavano sviluppando, e quindi le loro condizioni, diciamo, erano terribili, senza nessuna garanzia di nessun genere. Inoltre gli ebrei erano costretti a vivere in una zona di residenza che poi, col passare del tempo, aumentando il contatto con altri ebrei dei paesi vicini, queste zone di residenza diventano un luogo terrificante dove migliaia e migliaia di persone sono costrette a vivere nella miseria e nelle condizioni più disperate. Ecco, si potrebbe sostenere che da questo punto di vista le azioni messe in campo dal Bund anticipano in qualche modo le rivendicazioni del movimento operaio a livello internazionale tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, secondo lei? Secondo me il Bund è stato l'elemento chiave per lo sviluppo di queste rivendicazioni. Ecco. E gli ebrei del Bund avevano ben chiaro quello che di lì a poco avrebbero rivendicato, visto le condizioni in cui si trovavano. Quindi io penso che il contributo del Bund allo sviluppo del programma economico-sociale di rivendicazione degli operai dell'impero russo sia stato determinante. C'è un altro aspetto molto interessante che riguarda appunto la battaglia per l'orario di lavoro e per il salario, che è proprio un'azione tipica di tipo sindacale. Questa azione è collegata in qualche modo al riconoscimento di diritti collettivi degli ebrei, ma in questo senso è anche anticipatrice di una forma di federalismo in qualche modo? Assolutamente, sì. Quello che è interessante, prendendo lo spunto da quello che ha detto, è che proprio il Bund nasce come un'organizzazione rivoluzionaria, sindacale, quindi che rivendica i propri diritti collettivi. Quindi è un insieme di cose che darà vita ad una discussione molto importante, dove le rivendicazioni, chiamiamole materiali, le rivendicazioni classiche della lotta di classe, non sono mai disgiunte dalle rivendicazioni dei diritti civili, sociali e collettivi. Per quanto riguarda il federalismo, il Bund fonda il proprio partito, dopo fonda il partito, partecipa alla fondazione del Partito Socialdemocratico Operaio Russo. È bene sottolineare che dei 7 membri che si riunirono clandestinamente per dar vita al Partito Socialdemocratico Russo, ben 3 erano del Bund, il che significava che questi 7 rappresentavano tutto l'impero zarista, quindi avevano un'importanza ormai molto, molto determinante. In quest'ambito il Bund rivendicò sempre, e non abbandonerà mai questa idea, rivendicò sempre l'idea di come possiamo dire, di autonomia nazional culturale all'interno delle rivendicazioni di classe. Su questo provocò una grandissima discussione che darà adito a varie soluzioni, eccetera. Comunque quello che è interessante è che appunto in questo contesto il Bund nelle fasi preparatoria proponeva già da subito l'ipotesi di federazione del partito, quindi un partito federato composto dalle diverse autonomie culturali, sì, tra cui ovviamente quella ebraica, e successivamente, quando si cominciò a discutere del futuro Stato che si sarebbe determinato dopo la rivoluzione, di uno Stato federato, di una federazione nazionale culturale. Ecco, questo lo diciamo anche per chiarezza ai nostri ascoltatori, va strettamente connesso, come è ben spiegato nel capitolo del libro che si intitola Fermenti ebraici di rivolta, con la progressiva industrializzazione della Russia che avviene durante il XIX secolo. E qua appunto si ricorda che sempre più le officine degli ebrei cominciarono a produrre all'ingrosso invece che per la vendita al minuto, e i padroni divennero sempre meno indipendenti, la giornata lavorativa degli operai sempre più lunga. Quindi questo è il contesto, chiamiamolo storico-economico, in cui si colloca questo movimento. Sì, questo è il fondamento economico, diciamo, nel quale il movimento si colloca ed è costretto a collocarsi, perché le condizioni ormai erano tali che non c'era più possibilità di sopravvivenza, l'unica possibilità era quella di liberarsi di questa oppressione. E il Bund rivendica subito, anche perché è forte dell'esperienza, diciamo, ebraica, della storia ebraica, rivendica subito la riduzione dell'orario di lavoro ad 8 ore, e l'aumento del salario e soprattutto il giorno di riposo che nel caso degli ebrei era il sabato, ma certo, che poi per i cristiani, per i non ebrei diventerà la domenica. E comunque il Bund è stato il primo a rivendicare il giorno di riposo settimanale. Ecco, azioni che poi ebbero un qualche riscontro, oppure ci fu una lotta? Ecco, ci racconti un po' brevemente come quali furono gli sviluppi poi nati. Beh, il Bund, intanto, mentre succedeva tutto questo, gli ebrei erano oppressi sì, dai pogrom, dove venivano massacrati dall'attacco organizzato dalle forze reazionarie. Mm-hmm. E quindi è importante questo per dire che a un certo punto il Bund, di fronte allo sviluppo del processo rivoluzionario, ma anche allo sviluppo dei pogrom che ammazzavano migliaia di ebrei in questi assalti terrificanti, decide di organizzarsi un'autodifesa. Certo. Questa autodifesa poi quindi stabilisce quelle che si chiameranno le squadre clandestine di combattimento, con la quale praticamente il Bund andò incontro al primo tentativo rivoluzionario del 1905, dove ebbe un ruolo assolutamente determinante all'interno di tutto il movimento operaio. Ecco, infatti, e questo è molto importante, lo dicevamo fino all'inizio. Allora, noi la ringraziamo Massimo Pieri per essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato del suo libro Doi Kait, noi siamo qui ora, gli ebrei del Bund nella rivoluzione russa. Buona serata e grazie ancora. Grazie a tutti e saluti agli ascoltatori.